Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17:07. Buonasera, gentili ascoltatori. Abbiamo scherzato, si fa per dire naturalmente. Non hanno scherzato ieri i mercati che hanno chiuso la giornata, come sapete, come vi abbiamo raccontato, a Milano con un calo del 4,7%. A questo punto siamo indecisi se dire che evidentemente qualcuno non ha letto bene le parole di Mario Draghi ieri, del Presidente della Banca Centrale Europea, e ieri abbiamo accennato già nei collegamenti che c'era più sostanza di quanto non apparisse inizialmente, oppure semplicemente si è trattato del cosiddetto appunto sell on news, insomma vendi sulla notizia, acquista prima che la notizia arrivi e vendi sulla notizia. Questo non è chiaro, più probabilmente i mercati si attendevano qualcosa di immediato e molto concreto, e quindi una ripartenza immediata appunto degli acquisti di titoli di Stato dei paesi periferici, quindi ieri hanno venduto. Fatto sta che oggi, come già vi raccontavamo all'interno del giornale radio, una giornata perfettamente speculare a quella di ieri, con il FTSE MIB che guadagna praticamente 6 punti percentuali, il 5,93%, il FTSE All Share il 5,6%, Parigi guadagna il 4%, Francoforte altrettanto, Madrid oltre il 5%, va bene anche l'America, l'euro si rafforza, insomma come se la giornata di ieri e la reazione di ieri non fosse esistita. Del resto già ieri abbiamo parlato dell'altissimo livello di volatilità che c'è sul mercato, ebbene oggi ne avete la plastica dimostrazione. Di questo parleremo in apertura, ma non propriamente di come stanno reagendo i mercati o di come hanno reagito ieri, ma di cosa c'è veramente da leggere nelle parole di Mario Draghi e anche capire se a questo punto la strada dell'Italia dovrà essere per forza, almeno stando sempre a quello che ha detto Draghi ieri, per avere una protezione dagli spread e dal rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato, dovrà essere quella di chiedere aiuto e quindi firmare un memorandum che magari non sarà come quello della Grecia, però è quello che viene ritenuta una sorta di umiliazione, si viene messi sotto tutela. Parleremo di questo, parleremo anche di consumi. Ieri vi abbiamo accennato ai dati forniti da Confcommercio. Vorremmo capire di più su quello che è stato riferito appunto dal Centro Sud di Confcommercio, secondo il quale i consumi sono tornati ai livelli degli anni 30, che è un dato interessante. E però vorremmo capire come hanno fatto questi calcoli. In più ci sono i dati sui saldi, che il cui primo mese è particolarmente difficile. Questo per quanto riguarda i consumi, e poi torneremo su un'altra vicenda di un fondo che ha avuto parecchi problemi negli Stati Uniti, ne trovate notizie oggi sui giornali, si tratta di Knight Capital, il quale facendo operazioni con il cosiddetto high frequency trading, ossia con degli algoritmi che di fatto calcolano loro automaticamente, ve la dico in maniera grossolana, quando vendere e quando comprare, ci ha perso la bellezza di 440 milioni di dollari, che è una parte consistentissima del suo fatturato. Questi i temi di giornata, noi iniziamo come sempre dalle notizie in breve. Ovviamente Ovviamente è il 349-238-6666, come sempre il numero per intervenire in diretta. Ci scrivete, tra l'altro, Massimo ci scrive: bisogna vendere le caserme, ridurre le missioni all'estero. Massimo, io ho anche l'impressione in questo momento, ma chiederemo a gente più esperta di me e che più di me ne capisce, che a poco servano in questo momento le manovre, ulteriori manovre per l'Italia. La soluzione è necessariamente da un'altra parte. Come al solito, però, bisogna trovare l'occasione, questa deve essere l'occasione, per rimettere a posto cose che l'Italia si trascina dietro da tempo. Tra queste, appunto, un eccesso di spesa, ci vuole una riduzione del debito pubblico. Per carità, non so se sia quella la strada che dice lei, però insomma, ha ormai poco a che fare con i mercati e come vanno i mercati. Abbiamo l'oro in leggero rialzo nella giornata di oggi, così come il petrolio. Petrolio che sale a New York, il WTI dello 0,61%, $87,6 al barile, e il Brent dello 0,65% a $106,5. C'è una notizia che arriva dagli Stati Uniti che riguarda i posti di lavoro: 163.000 quelli creati in luglio, il tasso di disoccupazione è comunque salito all'8,3%, si tratta del maggiore incremento di posti creati dal febbraio di quest'anno. E sempre per quanto riguarda gli Stati Uniti, c'è da segnalare che un'altra città della California è caduta sotto i colpi della crisi. Dopo Stockton, che diventò famosa nell'Ottocento grazie alla febbre dell'oro e che alla fine di giugno ha dichiarato bancarotta schiacciata da un deficit di bilancio di $700 milioni, e dopo la località sciistica di Mammoth Lake, ora è la volta di San Bernardino, è la terza città del Golden State in un mese a gettare la spugna. Ha 210.000 abitanti, situata a 96 km est di Los Angeles, ha accumulato debiti pari addirittura ad $1 miliardo e non è più in grado di pagare gli stipendi. E quindi capitolo 9 della legge fallimentare per San Bernardino. Si diceva di Knight Capital: da errori tecnici perdite per $440 milioni, la società sta ora valutando alternative strategiche e finanziarie. In un paio di giorni si è perso il titolo in borsa, ha perso il 66%. E a proposito di scandali finanziari, di problemi finanziari, di errori di trading, c'è la vicenda di JP Morgan. La vicenda di JP Morgan, come sapete, che aveva assunto posizioni talmente grandi da influenzare il mercato dei derivati e ci ha perso parecchi soldi. Ebbene, la cosiddetta balena di Londra, che era il trader di JP Morgan che aveva preso queste posizioni, è stato incoraggiato ad aumentare le valutazioni di alcune delle sue scommesse. Un aumento nel range dei prezzi di mercato, ma in grado successivamente di causare preoccupazione e costringere la banca al rivederle al ribasso, è quello che dice il Wall Street Journal. Dall'Italia abbiamo il decreto sviluppo che è legge. Dice il ministro Passera: ci sono misure strutturali e risorse nell'immediato, tutti strumenti per finanziare la crescita. Ci sono i dati dei quali parleremo più avanti, di Confcommercio: a circa un mese dall'avvio dei saldi estivi si registra nel settore moda un calo del 13% rispetto ad un anno fa. A fare i conti è Federazione Moda Italia, che appunto è aderente a Confcommercio. Tra l'altro, secondo Confartigianato, invece, la crisi pesa sulle ferie. Meno 10% di italiani nel 2011, quasi 31 milioni sono quelli che hanno rinunciato alle ferie, contro i 9 milioni e mezzo di 10 anni fa. Nei primi 4 mesi del 2012 si parla di italiani, appunto, nelle strutture turistiche del paese, in calo del 9,9% rispetto allo stesso periodo del 2011. Si registra, a proposito di vacanze, oltre allo sciopero dei balneari, insomma già ve ne abbiamo parlato ampiamente nei GR, offensiva estiva del fisco in Campania contro l'evasione fiscale, 140 funzionari sono impegnati già in queste ore, ma i controlli proseguiranno per l'intero agosto per controlli in stabilimenti balneari, discoteche, ristoranti, agriturismi e sagre. E poi c'è la vicenda Ilva, il governo, decreto legge per l'avvio immediato delle bonifiche. Ricordiamo, sono quelli dei quali abbiamo parlato nei giorni scorsi, si tratta di 336 milioni di euro. Le modalità per la gestione di queste risorse sono assicurate attraverso procedure semplificate, dice il ministro Clini, che assicura entro la settimana una soluzione per ridurre le emissioni. Possiamo sentire il ministro. Abbiamo approvato un decreto legge che è finalizzato a rendere disponibili le risorse che sono state previste nel protocollo d'intesa che abbiamo siglato il 26 luglio scorso, e nello stesso tempo il decreto legge prevede la semplificazione delle procedure per fare in modo che gli interventi individuati siano attuabili in tempi certi, in tempi rapidi. Le risorse previste nel protocollo sono 336 milioni e queste risorse sono quelle che riguardano gli interventi che vengono attuati. È un decreto legge operativo in pratica. Il punto vero è che il governo, a valle del protocollo d'intesa che è stato siglato, ha stabilito di facilitare le procedure che consentono di attuarlo. E nell'incontro che abbiamo avuto ieri con l'impresa ha accolto il mio invito a superare i contenziosi con l'amministrazione e avviare un tavolo di lavoro tecnico per esaminare nel merito le problematiche aperte, cioè i punti delle prescrizioni del Ministero dell'Ambiente che Ilva ritiene non adeguate e per le quali ha ricorso a TAR. Ilva ha accettato e a questo punto abbiamo aperto questo tavolo tecnico che comincia a lavorare da lunedì a Bari, e noi pensiamo nell'arco di una settimana di arrivare all'identificazione delle soluzioni tecnologiche più adeguate per ridurre le emissioni inquinanti dello stabilimento, concordate tra l'impresa, la Regione Puglia e il Ministero dell'Ambiente. In questo caso, come prevede la legge, potremmo sottoscrivere un accordo tra le parti che vincola l'impresa ad attuare gli interventi che abbiamo identificato. Questo supera i contenziosi, questo è anche un modo europeo di lavorare e una grande impresa come Ilva che entra in questa prospettiva è un'ottima notizia. E va bene, avete ragione, ci scrivete al 349-238-6666, quando le cose vanno male sciorinate il sangue che cola dai bancari, oggi che c'è tanto verde potreste dirci come vanno, ve lo diciamo, Mediolanum guadagna il 16,09%, Intesa San Paolo l'11,8%, la Popolare Emilia Romagna l'11,5%, UBI Banca il 9,2%, altri finanziari, anche se non bancari, Generali più 8,4%, Banco Popolare più 8,5%, Popolare di Milano più 8,09, Unicredit più 7,6, non solo bancari e finanziari, Enel Green Power guadagna il 7,6, Diasorin il 6,5, Buzzi Unicem il 6,48%, comunque approfondiremo naturalmente come sempre più avanti nello spazio dedicato ai mercati. Ci dite di andare adagio con l'inglese, probabilmente vi riferite a quella questione dell'high frequency trading, l'abbiamo spiegato mi sembra abbastanza chiaramente di cosa si tratta. Comunque vuol dire trading ad alta frequenza, cioè scambio di titoli ad alta frequenza con dei sistemi semiautomatici. Sono i soldi con i quali con questo sistema appunto Knight Capital ha perso 440 milioni di dollari. Veniamo al day after di Draghi dunque, un day after gioioso almeno sui mercati che forse hanno dato una lettura successiva e più approfondita delle parole del presidente della Banca Centrale Europea. Spread tra BTP e Bund, ossia differenza di rendimento tra titoli di Stato italiani e tedeschi, visto che traduciamo tutto in realtà e lo facciamo molto spesso, intorno ai 459 punti dopo aver chiuso a 509 ieri. Saluto Isabella Bufacchi del Sole 24 Ore, buonasera Isabella. Buonasera. Buonasera a tutti. E buonasera a Francesco Daveri, docente di scenari economici all'Università di Parma, editorialista del Corriere della Sera, colonna della voce.info. Buonasera Daveri. Buonasera. Allora, come già accennavamo ieri, gli ascoltatori più attenti se ne saranno accorti, e partirei con Isabella Bufacchi. In realtà dietro le parole di Draghi c'è molto di più di quanto non abbiano letto inizialmente i mercati, che hanno visto solo un non intervento immediato, mentre invece le azioni ad ampio spettro prospettate sono molte e forti. Decisamente. Il presidente della Banca Centrale Europea ha detto, direi oramai chiaramente, che la Banca Centrale è intenzionata ad entrare sul mercato e acquistare i titoli di Stato per quei paesi che presentano uno spread, cioè un differenziale del rendimento tra i loro titoli e quelli tedeschi, uno spread troppo elevato. Questa notizia, secondo me, che lui ha dato, poi chiaramente dicendo che nelle prossime settimane ci saranno i dettagli, è molto importante, perché noi ci dobbiamo ricordare da dove venivamo. Da dove venivamo? Quando in luglio i titoli di Stato, i rendimenti di Spagna e Italia sono tornati a salire in maniera molto forte, cosa avevano i mercati in mano? Avevano un fondo di stabilità IFSF piuttosto piccolo e che comunque funziona anche un po' male, perché ricordiamolo, non ha i soldi, diciamo, nella cassa pronti per intervenire in qualsiasi momento, li deve raccogliere sul mercato, non ha dimensioni gigantesche e di fronte ai problemi che avrebbe potuto fronteggiare su Italia e Spagna. Quindi i mercati avevano tutto sommato un fondo di stabilità europeo piuttosto scadente, e poi avevano dall'altra parte una banca centrale europea che all'ultimo consiglio direttivo all'inizio luglio non aveva neanche parlato della possibilità di riaprire il programma di acquisto dei titoli di Stato fermo da febbraio. Quindi il mercato cosa aveva in mano? Secondo me un pugno di mosche, nulla. E cosa invece è accaduto adesso, dopo le parole del presidente della BCE? Che effettivamente c'è questa possibilità, e ha posto solo una condizione, di lavorare assieme ai fondi di stabilità europei, cioè la BCE è disposta a scendere in campo per acquistare sul secondario, e quindi con tutta la sua potenza di fuoco, che è potenzialmente illimitata, a condizione che gli stati facciano solo una cosa, cioè che attivino quello che comunque è un primo passo per il fondo di stabilità europeo, che lo Stato vada a chiedere un soccorso anche in forma di scudo antispread al fondo. Quindi importantissimo che la BCE, rispetto a prima che non c'era nulla, ha detto ok, io posso scendere al fianco di questi fondi. Seconda cosa, molto brevemente, che secondo me ha detto di importante, è che se mai decidesse di riaprire il programma di acquisto dei titoli di Stato, lo cambierà, perché quello di prima non ha funzionato. Quindi ricordiamoci anche che i mercati erano scontenti del primo programma, perché alla fine era piccolo, opaco, poco trasparente, non si capiva. Beh, adesso il presidente Draghi ha detto: avrete un programma trasparente, grandi importi, vi diremo quali titoli compriamo, quando, quanti, cioè direi grandi passi in avanti. Sì, decisamente appunto, letta come dire, successivamente, no? Al di là della lettura a caldo, ripeto, che hanno dato i mercati, mi sembra proprio che sia così. Mi sembra lei sia sulla stessa linea, professor Daveri, no? Sì, sì, proprio così, tant'è che ieri effettivamente, quando ho sentito della dichiarazione di Draghi, e io avevo pensato, dato che non opero sui mercati ma ragiono per conto mio, ho detto va, Draghi, per quanto mi riguarda, ha detto quello che poteva dire. Poi ho visto quello che stava succedendo, e a quel punto mi è venuta l'idea di appunto proporre questo articolo sul Corriere, perché effettivamente mi sembrava che ci fosse una grossa differenza tra la percezione di mercati, degli operatori di mercato, che probabilmente erano un po' nervosi, un po' iperottimisti nei giorni precedenti, hanno pensato, insomma, si è un po' tutti alla ricerca di una bacchetta magica, di un quick fix, sempre per usare una parola inglese che non bisognerebbe usare, che si può tradurre come rapido rimedio di fronte alla crisi in cui siamo adesso, e però sto rapido rimedio non esiste. Questa è la cosa a cui dobbiamo rassegnarci, bisogna mettere a posto tanti piccoli tasselli di un quadro che al momento non sono ancora a posto. Tra l'altro, professor Dairi, mi scusi se la interrompo. Qua mi sembra che da questo punto di vista, e anche da quel che ci accennava poco fa Isabella Buffacchi, mi sembra che qua ci sia stata una sottolineatura che è molto rilevante, cioè l'ulteriore sottolineatura dell'indipendenza della Banca Centrale Europea, cioè questo rigettare la palla nel campo degli stati che, se vogliamo, non ci piacerà a noi italiani e non piacerà nemmeno agli spagnoli, però tutto sommato non è che sia così scorretto. Ma quello che ci ricorda Draghi è che non è che uno può preservare l'euro fregandosene dei trattati, ecco, questo è un po' uno dei vari punti impliciti nelle affermazioni di Draghi, cioè esistono dei trattati che vietano alla BCE di finanziare i disavanzi pubblici nel mercato primario, che gli consentono invece di acquistare titoli di debito pubblico sul mercato secondario, quindi questa è già una prima distinzione che naturalmente occorre bene avere in mente. E dall'altro lato però così la BCE non è che può mettersi a fare per esempio acquisti illimitati senza chiedere niente in cambio, cioè non può risolvere i problemi che invece i singoli governi devono un po' fare ognuno a casa vostra e che anche i vari governi dei paesi europei tutti insieme devono cercare di risolvere. La Banca Centrale Europea non può assegnare una licenza bancaria all'ESM come al Fondo Salva Stati permanente, ma a farlo devono essere invece i governi dei paesi quando prenderanno questa decisione. Naturalmente. Anche questo è una cosa che Draghi, ahimè, ieri non ci poteva dire. Naturalmente. Intanto arriva notizia che una riunione straordinaria dei ministri delle finanze della zona dell'euro si terrà lunedì 3 settembre, lo indicano fonti europee, riferendo ai temi principali in discussione, che cosa volete che siano? La Spagna, il possibile intervento antispread del Fondo Salva Stati, la situazione della Grecia sulla base della missione della Troica, insomma chissà a cosa servirà la discussione sull'intervento antispread del Fondo Salva Stati quando comunque siamo appesi al 12 settembre, quando la Corte Costituzionale tedesca dovrà decidere. Accennava il professor Daveri, Isabella Buffacchi, una questione che è abbastanza centrale, che è quella della famosa licenza bancaria all'ISM, ossia il Fondo Salva Stati Permanente. Lo diciamo sempre che è una questione importante perché riguarda la rapidità di operazioni che può, la rapidità nell'operatività, scusate la cacofonia, che può avere il Fondo Salva Stati ISM. Ecco, da questo lato forse ieri anche c'è stata un po' di confusione, perché ho visto girare titoli, e forse anche noi ci siamo sbagliati, che dicevano Draghi dice no alla licenza bancaria per l'ISM, altri che dicevano dice sì. Ci aiuti a capire? Sì, certo. Beh, innanzitutto il dibattito sull'ISM, la licenza bancaria, si è sviluppato quando non si sapeva che la Banca Centrale Europea sarebbe tornata sul mercato, quindi direi che torno a dire i nostri fondi di stabilità europei non funzionavano bene e il nuovo fondo a settembre senza la BCE di supporto era una brutta copia degli SSF del primo fondo, quindi si era pensato come si fa a potenziare, cioè in realtà a dare la possibilità a questo nuovo fondo di attingere a una linea di credito che è quella della banca centrale, quindi è sempre aperta, nel caso in cui dovesse intervenire sul mercato secondario, perché intervenire sul mercato primario, sulle aste è facile, perché noi sappiamo, noi abbiamo il calendario delle aste dei titoli di Stato, il tesoro, le fissa, quindi ogni 15 giorni si sa più o meno quali sono gli ammontari e questi fondi che non hanno i soldi in cassa possono prepararsi con una raccolta sul mercato. Se invece l'ISM, il nuovo fondo da settembre, fosse dovuto attivare già subito sul secondario ogni giorno, magari comprando 5-6 miliardi di titoli qui e là, non avrebbe potuto fare. Allora si è detto, se ha una licenza bancaria diventa controparte della banca centrale quasi in automatico. Allora secondo me il presidente Draghi ieri ha comunque spiegato questo, che la Banca Centrale Europea non rilascia la licenza bancaria, cioè io per esempio ho seguito la BEI, ha chiesto la licenza bancaria alla Banca Centrale di Lussemburgo, quindi l'ISM per esempio al momento non soddisfa neanche i 3 requisiti di base che stabilisce la Banca Centrale Europea per fare richiesta e essere accettato come controparte. Quindi secondo me molto semplicemente il Presidente Draghi ha detto: io vi ricordo che per ora c'è qui da noi un parere legale, noi abbiamo dovuto dire no, l'ISM così come è non soddisfa i requisiti per operare come controparte del nostro sistema. Quindi scusa se riassumo, Isabella, la sostanza è ancora una volta tocca ai governi, cioè sono i governi che devono decidere di dare a questo fondo salva stati i requisiti affinché noi gli concediamo la licenza bancaria. Stringendo. Il primo passo torna, bravissimo, ai governi, cioè Draghi fa la banca centrale, quindi dice: ma voi venite da me con il nuovo fondo, con tutti i requisiti soddisfatti, e poi io potremo decidere, quindi ci sarà un secondo parere legale. Però posso dire che tutta questa licenza bancaria serviva tutto sommato per acquistare i titoli sul secondario. Intanto la BCE ha detto: questo lo faccio io. Certo è che se la BCE compra soltanto i titoli a breve termine, poi si dovrà vedere che cosa significa questo breve termine, non so, sì. BOT, CTZ, BTP a 3 anni, e poi si ferma lì, forse potrebbe far comodo avere l'ISM che con la sua licenza bancaria compra anche un po' di BTP a 5-10 anni. Certo, naturalmente a scadenze più lunghe. Ultima domanda, professor Daveri, è molto brutale. Dovremo andare, come dice qualcuno, io non so quanto giustamente, perché poi insomma queste metterla così è sempre brutta, però dovremo andare col cappello in mano a Bruxelles, cioè ci toccherà a un certo punto chiedere gli aiuti, sottostare a memorandum e troica, per quanto alleggeriti probabilmente viste le riforme già fatte rispetto alla Grecia? Ma appunto di questi tempi è sempre meglio mai dire mai, piuttosto che dire no, non ci andremo assolutamente. Però io direi di fare io farei un paio di osservazioni. Uno è che bisogna tenere a mente che Spagna e Italia sono molto diverse per la fonte dei loro problemi. La Spagna ha un problema di deficit, l'Italia ha un problema di debito. Questo vuol dire che se uno ha un problema di deficit vuol dire che per finanziare l'eccesso delle proprie spese sulle entrate nel 2012 la Spagna deve emettere dei titoli, e questi titoli devono essere comperati sul mercato e sono titoli, diciamo, deficit pubblico nuovo. L'Italia ha un problema soprattutto di debito pubblico. Se anche l'economia rallenterà, il PIL scenderà del 2% e passa, come sembra che sia per il 2012, quello che probabilmente avremo è che ci sarà un deficit pubblico che sarà intorno al 2%. 2% è molto meno del deficit pubblico degli spagnoli, che è superiore al 6%. Quindi questo vuol dire che per l'Italia il nuovo deficit non è un problema. Il problema potrebbe essere trovare qualcuno che si ricomperi i titoli che vengono a scadenza, e questo quindi è l'altra cosa, e qui si tratta di vedere quanto sia opportuno quanti altri titoli sia opportuno emettere, con quale scadenza, e questa è la politica di gestione del debito pubblico che però è stata disegnata negli anni passati e che viene calibrata di volta in volta. Quindi certo. Da questo punto di vista mi sembra che se si può dire, Italia e Spagna giocano in campionati differenti, dove per una volta l'Italia mi sembra che, al contrario che nel calcio, sia appunto un po' meglio. Ci scrivete al 349-238-6666, ma è possibile che i vostri ospiti seguano sempre anche loro i mercati? Ieri tutti a criticare, oggi peana per Draghi, si sprecano? No, non è così, nego, perché ieri abbiamo ospitato il collega da Francoforte del Sole 24 Ore che ci diceva già che appunto nelle parole di Draghi c'era molto di più di quanto i mercati non stessero leggendo, e addirittura due persone che operano sui mercati che ci dicevano anche in questo caso, cioè, loro stessi ci dicevano i mercati stanno leggendo male, e uno di loro ci diceva guardate che qua sono gli operatori stranieri, probabilmente riferendosi immagino agli americani, che evidentemente non stanno leggendo la cosa nella nella maniera corretta o banalmente stanno speculando. Ci dite ancora, la licenza bancaria serve per minacciare all'ISM, ossia al Fondo Salva Stati, serve per minacciare l'acquisto illimitato, che è l'unico modo per stabilizzare i tassi. È vero anche questo, ossia che se il Fondo Salva Stati avesse licenza bancaria potrebbe finanziarsi in maniera illimitata invece di avere una dotazione specifica sostanzialmente. Noi adesso veniamo alla borsa. Borsa che chiude sui massimi, appunto, più 6,34% sul FTSE MIB, più 6,06% sul FTSE All Share, bene anche le altre piazze finanziarie europee, Francoforte sui 4 punti percentuali di guadagno, Parigi oltre il 4%, Madrid oltre il 5%, CEO Condina, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. E così come ieri abbiamo iniziato dicendo, insomma, che dobbiamo dirci anche oggi, nel senso che veramente va bene tutto. Sì, sì, va bene tutto e vanno particolarmente bene i titoli bancari, che ieri erano andati male, i titoli bancari che sono stati spinti oggi da un autentico crollo per quanto riguarda gli spread tra i titoli di Stato italiano e quelli tedeschi, un crollo particolarmente ampio sulle scadenze brevi. Se pensiamo che il 2 anni italiano BTP aveva aperto al 3,8% e ha chiuso praticamente al 3,1% di rendimento, un 5 anni che è calato anche lì di mezzo punto percentuale, e diciamo gruppi finanziari come Mediolanum, per esempio, che è molto esposto sui titoli a breve termine, hanno immediatamente preso la palla al balzo e sono cresciuti molto, Mediolanum sì. Più 16%. Sì, addirittura più 16%, questo anche sulla scorta del fatto, lo riferivamo poco fa, che Draghi ha detto che sono pronti a intervenire, che la BCE è pronta a intervenire soprattutto sui titoli a breve, insomma, come vi abbiamo raccontato poco fa. Quindi una lettura diversa. Mediolanum appunto più 16%, Popolare Emilia Romagna più 13,4%, Intesa San Paolo più 12,5%. Intesa San Paolo, anche ci sono stati anche i conti oggi, sì, no? Oggi i conti, un risultato netto che è nel secondo trimestre è sceso del 41% a 470 milioni, è sicuramente un calo, però decisamente meglio rispetto alle previsioni, alle stime degli analisti, quindi il titolo è andato bene, ha guadagnato il 12%, oggi ci sono stati anche i conti di Unicredito, conti che sono stati tuttavia diversamente da Intesa inferiori alle previsioni del mercato, però il titolo ha guadagnato l'8,3%, dimostrazione che poi oggi i fondamentali dei titoli contavano fino a un certo punto. Questo sì, per quanto riguarda Unicredit, tra l'altro ha chiuso le pendenze con l'Agenzia delle Entrate sulle operazioni di finanza strutturata degli esercizi 2007, 2008, 2009, tra cui la famosa operazione Brontos, ne abbiamo parlato, lo ricorderete, per cui è stato indagato l'ex amministratore delegato Alessandro Profumo. Unicredit ha pagato 264 milioni e mezzo di euro al fisco, quello che ha comunicato, questo è quello che ha comunicato l'azienda. Rimbalzo anche per le utility. Sì, rimbalzo in parte, per esempio Enel fa più 6,2%, Enel Green Power più 7,8%, Enel ieri a mercato chiuso ha dato i conti con dei margini in calo, ma per le utility questo insomma non è una sorpresa, considerato il ragionamento che abbiamo fatto più volte, cioè il calo della domanda elettrica. Un altro utility, per esempio A2A, invece oggi ha fatto solo più 1,88%, insomma resta sempre a ridosso dei valori minimi. Mentre invece sono puri movimenti di borsa quelli che riguardano Ferragamo, che oggi è il titolo migliore, ma solo perché ieri aveva, in una giornata devastante, aveva retto, no? Sì, ieri aveva retto, anche Tenaris, ieri era stato tra i titoli praticamente sulla parità, se non positivo, e oggi fa solo, tra virgolette, più 1,9%. Benissimo. Nonostante i conti che mi sono sembrati abbastanza buoni, Campari chiude con un rialzo di solo il 3%, dico solo perché la giornata è talmente buona che, no? Anche in questo caso, anche ieri Campari era stata fra i titoli insomma che ha maggiore tenuta, poi anche nel corso dell'anno Campari ha un bilancio positivo, negli ultimi anni è stato uno dei titoli davvero più resistenti alla crisi, e in una giornata di oggi, quindi quando i titoli più volatili crescono di più, dei titoli più resistenti fanno solo più 3%. Sì, il gruppo ha chiuso i primi 6 mesi dell'anno con un incremento delle vendite e dei margini, cresciute del 5%, appunto le vendite del periodo. Altre storie di giornata, mi sembra non ci sia un granché oggi, Ceo. No, diciamo che è interessante sottolineare il fatto che da giovedì scorso, cioè da quando Draghi lanciò quel famoso appello con la BCE, diciamo pronta a tutto pur di difendere la tenuta dell'euro, se si fa un bilancio su quell'otto volante su cui sono saliti i listini, il FTSE MIB ha guadagnato il 12%. Quindi insomma, almeno da questo punto di vista, l'appello di Draghi a qualcosa è servito, vedremo se poi arriveranno i fatti. Grazie a Ceo Condina di Radio Corriere del Sole 24 Ore per essere stato con noi, e grazie come sempre ai colleghi per gli aggiornamenti di mercati che ci fanno con puntualità. Un altro quadro generale, insomma, dei finanziari vi abbiamo detto, ma ci sono parecchi industriali tra i migliori, e c'è Finmeccanica che guadagna quasi l'8%, è nel Green Power il 7,8%, la Popolare di Milano il 7,7%, Eni il 6,9%, Mediobanca il 6,8%, Buzzi Unicem il 6,7%, Fiat il 6,5%, Diasorin il 6,4%, Enel il 6,23%, Parmalat il 6%, il Monte dei Paschi quasi il 6%, ST Microelectronics il 5,7%, più del 5% lo guadagnano Impregilo e Telecom Italia, poco meno Exor e Ansaldo, il 4,7 Azimut, Pirelli e Luxottica, poco più del 4 Prismian, Mediaset e Atlantia, poco meno del 4% lo guadagnano Snam e Tots, poi Terna 3,7%, Saipem più 3,5%, Lottomatica più 3,10%, Autogrill più 3,02%, appunto Campari più 3%, così come Fiat Industrial, Tenaris più 1,91%, A2A più 1,88%, il peggiore si fa per dire ancora una volta Salvatore Ferragamo più 1,13%, euro contro dollaro a 1,23,69, e lo spread, la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi a 463 punti. Allora, in un messaggio nel quale mette insieme un po' di cose, insomma, le citiamo tutte, ci dite, potrebbe raccontarci, Giorgio ci dice potrebbe raccontarci cosa sta emergendo sul ministro e fare un po' di serio giornalismo d'inchiesta, non so quale ministro, e poi ci chiede come fa l'Associazione degli Artigiani a sapere già oggi quanti italiani non andranno in vacanza. In realtà forse non ha ascoltato bene Giorgio, perché sono dati relativi al 2011, i dati, come dire, ci sono dei dati complessivi relativi al 2011 e poi ci sono invece dei dati relativi ai primi 4 mesi del 2012, quindi non sono previsioni sull'estate, ma sono dati sul passato, ognuno ovviamente dal suo punto di vista. Detto ciò, insomma, tendiamo a diffidare sempre un po' delle statistiche fatte all'impronta, insomma, e ne girano parecchie. Non credo che siano fatte all'impronta quelle di cui parliamo oggi, ma ne parliamo con l'autore, parliamo di consumi. Segnali sono ancora negativi e lo sapete, qualche dato ve lo accennavamo già ieri, e appunto l'autore è lo stesso, è la Confcommercio. Saluto Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi. Buonasera Bella. Buonasera. Allora, circa un mese dall'avvio dei saldi, scrivete, e partiamo da qua, poi veniamo invece anche sui dati di ieri che sono più forti, quantomeno dal punto di vista del titolo, diciamo così, però partiamo dai saldi, che sono i dati di oggi, calo del 13% nel primo mese di saldi? Sì, quindi questo già è un dato abbastanza brutto, perché in termini previsionali noi stimavamo un meno 8,5%, i primi consuntivi dicono meno 13, quindi una situazione peggiore di quella già brutta che prevedevamo. Fornisco un'altra indicazione di massima, giusto per capire il perimetro e l'ampiezza di questa crisi, i saldi dell'estate 2012 rispetto ai saldi dell'estate 2008 fanno qualcosa come meno 17%, il che vuol dire che anche quando ci sono delle ottime iniziative di marketing, quando ci sono degli ottimi sconti, non c'è niente da fare, se il reddito disponibile cala, le persone non sono in condizioni di fare acquisti adeguati. E c'è anche l'effetto, immagino almeno in parte, del livello degli sconti che viene fatto quest'anno, che insomma chiunque giri in una qualsiasi città o passi davanti a un qualsiasi negozio lo nota, insomma, il livello degli sconti si è elevato notevolmente. Sì, diciamo negli ultimi due anni, anche l'anno scorso c'erano stati percentuali di sconto molto, molto elevate. D'altra parte, che cosa può fare il sistema, la filiera della produzione e della distribuzione se non rispondere rischiando un po' in termini di margini a questa difficoltà macroeconomica che poi si riflette sui livelli di benessere, sui livelli di spesa delle famiglie? Non solo ci sono stati sconti, ma ci sono state delle ottime iniziative di marketing, tenere i negozi aperti molto a lungo, invogliare i clienti, insomma abbiamo fatto di tutto, probabilmente non si poteva fare di più, e del resto i dati macro lo testimoniano. A proposito invece di dei dati sempre sui consumi, naturalmente, che avete fornito ieri, è, devo dire, un dato molto forte quello che date. Insomma, si parla di un calo dei consumi nel 2012, il peggiore addirittura dagli anni 30. Ma mi scusi, Bella, visto che poi se no ci criticano per come vengono elaborate certe statistiche, ci chiarisce come l'avete fatto? Perché con una struttura di consumi probabilmente così diversa, così, no? Come si fa a calcolare una cosa di questo? Senza entrare nel tecnicismo, naturalmente. No, guardi, si possono prendere le serie storiche lunghe, quelle prime, diciamo, dell'Unità della Repubblica sono, diciamo, più affette d'errore, ma comunque ci sono dei dati macro. Se controlliamo per le variazioni percentuali anno su anno, il capitombolo di quest'anno, del 2012, faccio notare che il primo trimestre fa -2,4, e questo lo dice l'Istat, non lo dice l'Ufficio Studi Commercio. Se prendiamo questo -2,8 che noi stimiamo per la fine dell'anno, ma ci sono istituti che vanno peggio, che dicono qualcosa peggiore, che arrivano anche a -3,2, e ci togliamo l'incremento della popolazione in 250.000 persone, quindi di 4 decimi di punto, arriviamo a una riduzione dei consumi pro capite, cioè a testa, di quanto consumiamo a testa, del 3,2-3,3%. Se guardiamo le serie storiche, una roba del genere non si è mai verificata. Nel 93 si verificò una riduzione del 3%. Per trovare una cosa così brutta, perché poi abbiamo avuto gli anni 50, 60, 70, 80 in cui i consumi non sono scesi mai, dobbiamo tornare presumibilmente, ecco, a qualcosa subito dopo la crisi del 29. Tutto qui. Abbiamo perso 1.800 euro di reddito, dite, tra il 2002 e il 2012, in 10 anni. Anche questi non sono dati dell'Ufficio Studi Commercio, ma sono elaborazioni su dati ufficiali, purtroppo qui c'è poco da inventare, i numeri sono quelli. Se consideriamo, ecco, che ne so, che nel biennio 2008-2009 il PIL è sceso di 6,5 punti percentuali, il prodotto lordo alla fine sono redditi che affluiscono alle famiglie, già solo quegli anni spiegano molto di questa. Il fisco ha un impatto su questo? Certamente ha un impatto, perché quando passiamo dal prodotto al reddito, cioè dopo che abbiamo lavorato tutta la giornata per 220-230 giorni l'anno, 8 ore al giorno, anche 10, dobbiamo vedere di questa produzione quanto affluisce nelle nostre tasche in termini di reddito, ma la produzione è tassata attraverso una serie di imposte, e si sa benissimo che le ultime manovre hanno richiesto una correzione di 80 miliardi, di cui 53-55 lato imposte, quindi l'IMU, l'IVA, le accise e le addizionali, varie addizionali regionali impattano sul reddito disponibile, su quello che ci rimane in tasca, e quindi si giunge a queste conclusioni. Grazie a Mariano Bella, direttore dell'Ufficio Studi di Confcommercio, e buonasera. Noi siamo quasi in chiusura e parliamo di finanza americana. O meglio, di un nuovo errore in una banca, un nuovo problema arrivato con il trading, in questo caso con l'high frequency trading, ossia il trading ad alta velocità fatto dagli algoritmi, non dagli umani. Abbiamo pochi minuti e però vogliamo fare un punto con Marco Valsania del Sole 24 Ore da New York. Marco, buonasera. Buonasera a voi. Che cosa è successo? Ma è stata, diciamo, di nuovo una così, è ricomparso sui mercati lo spettro del flash crash. Ricorderete nel 2010, quando nel maggio del 2010 in pochi minuti il mercato ebbe oscillazioni del 10%, bruciando e poi recuperando centinaia di milioni di milioni di dollari di valore di mercato, miliardi di dollari di valore di mercato, anzi. E tutto perché l'high tech, diciamo, a cui si affida sempre più gli exchange, sempre più il sistema dei mercati era andato in tilt, appunto algoritmi che guidano operazioni automatiche, high frequency trading, cioè trading ad altissima velocità, frazioni a millesimi di secondo, avevano causato scompensi tali da far oscillare violentemente moltissimi titoli. In questo caso la cosa si è verificata con un solo gruppo, diciamo così. Esatto, questa volta al centro della casa, questo Knight Capital Group, che è un grande broker. In realtà qui dalle ricostruzioni il problema è stato un errore nel software, un software maligno, un software che ha sbagliato, che ha immesso improvvisamente milioni di ordini completamente fuori controllo di compravendita, e questa all'apertura dei mercati di martedì ha scatenato oscillazioni violente su moltissimi titoli, spesso anche del 10, 20, 30%, anche influenzando anche grandi nomi da General Motors a General Electric. Insomma, ecco, questa cosa è stata poi contenuta, sono scattati anche meccanismi automatici di blocco delle quotazioni dei titoli, quindi hanno funzionato alcune protezioni messe in atto dopo il flash crash, però ha riaperto il dibattito sulla comunque la grande fragilità che comunque rimane su mercati sempre più elettronici, su mercati sempre più controllati dominati da high tech, da algoritmi, da sistemi automatici. Il gruppo, Knight Group, oggi sta un po' sì, recuperando. Vedo, guadagna circa un 30%, ha perso in due giorni il 66%. Del resto, la perdita ante imposte derivata da questa vicenda è di 440 milioni di dollari, che è il quadruplo dell'utile netto del 2011. Grazie a Marco Valsania del Sole 24 Ore, grazie come sempre a Mauro Del Corno in redazione, grazie a Fabio Cantadori in regia, grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, Focus Economia torna lunedì dopo il GR delle 17 con Deborah Rosciani. Radio 24. La passione si sente.